Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 7 giugno 2015. Conferenza mondiale del web, la prima volta dell'Italia. Firenze è la città che quest'anno, tra il 14 e il 18 aprile, ha ospitato per la prima volta nella storia italiana la conferenza internazionale sul World Wide Web, la più importante manifestazione accademica legata al mondo del web, in cui vengono discusse ed analizzate le evoluzioni della realtà digitale, la diffusione delle tecnologie e l'impatto di questi cambiamenti su società e cultura. Durante l'evento, grande attenzione è stata riservata al ruolo della rete come vettore di enormi quantità di dati, anche nella forma di open data, che hanno aperto in questi anni nuove strade all'attività di indagine scientifica, come pure alla partecipazione dei cittadini alla vita politica. Fin qui la notizia del 7 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radice nel presente, in questo 2012. Firenze è stata scelta in queste settimane per ospitare tra 3 anni la 25esima edizione della World Wide Web Conference, un evento importantissimo conquistato da Firenze Convention Bureau insieme ai professori Aldo Gangemi del CNR di Roma, Stefano Leonardi e Alessandro Panconesi dell'Università La Sapienza. Sentiamo Aldo Gangemi. Il punto è che in Italia non c'era mai stata, e in più il discorso che, su cui noi ci siamo, diciamo, gli aspetti su cui siamo concentrati per proporre la candidatura, al di là degli aspetti scientifici, è il fatto che questa conferenza può giocare il ruolo di integratore, diciamo, di gruppi sociali, diciamo, che in Italia non sono molto, non convergono granché sul web. In Italia, a fronte di una ricerca scientifica sulle tecnologie del web molto avanzata, tra le migliori al mondo, non corrisponde un'attenzione altrettanto buona sia della politica della ricerca in Italia sia della politica in generale sulle tecnologie web, e anche le industrie in Italia, diciamo, le aziende non hanno dei gruppi di ricerca così avanzati, soprattutto quelle più grandi, mentre comincia a esserci un florilegio di piccole e medie imprese che stanno cominciando a lavorare bene, soprattutto start-up accademiche. Soprattutto queste tre comunità non sono fra loro, non si parlano granché, quindi diciamo questa è un'opportunità per mettere insieme queste tre comunità, cercando di sfruttare al meglio la capacità di attrarre attenzione non solo di tipo mediatico ma anche iniziative concrete. A grandi linee, quali sono le sfide attese da un punto di vista di un dibattito internazionale invece? Forse la sfida maggiore attualmente è l'integrazione tra, diciamo, tecnologie di apprendimento automatico, le macchine che riescono a estrarre delle contiguità, diciamo, dai dati sparsi. Questo succede per esempio analizzando le reti sociali o analizzando grandissime quantità di testi o di dati e facendo emergere delle cose che sarebbe stato impossibile prima riuscire a ritrovare. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.